Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Jadwiga non si sente bene, non credo si unirà a noi, disse Herman. Mi spiace, qui non si sta molto comodi. Comodi! Lo interruppe la signora Schreier. Hitler ci ha insegnato come si fa a tirare avanti senza comodità. Anche lei viene di laggiù? Domandò Herman. Sì, di laggiù. Dai campi di concentramento? Dalla Russia. Dove si trovava in Russia? Domandò Tamara. A Jambul. Nel campo? Anche nel campo. Abitavo in via Nabrosnaya. Dio del cielo, anch'io abitavo in via Nabrosnaya, esclamò Tamara. Bene, il mondo è piccolo, il mondo è piccolo, disse il signor Peschler battendo le mani. Aveva dita appuntite e le unghie appena curate. La Russia è un paese vasto, ma non appena due profughi si incontrano, scoprono di essere o imparentati o di aver vissuto insieme nello stesso campo di concentramento. Senta un po', disse rivolto alla signora Schreier. Scendiamo tutti a casa sua, io manderò a prendere bagel e magari anche un po' di cognac. Venga giù, signor brother. Ricordo le persone, ma dimentico i nomi. Una volta dimenticai anche il nome di mia moglie. Quello lo dimenticano tutti gli uomini, disse la signora Schreier strizzando l'occhio. Purtroppo non è possibile, disse Herman. E perché no? Venga giù con sua moglie. Al giorno d'oggi una gentile convertita al giudaismo non è una cosa da poco. Ho saputo che sua moglie la nascose per anni in un fienile. Che genere di libri vende? Mi interessano i libri antichi. Una volta ne ho acquistato uno con la firma di Lincoln. Mi piace andare alle aste. Mi è stato detto che lei scrive anche. Che cosa scrive? Herman stava per rispondere quando squillò il telefono. Tamara alzò gli occhi e Wojtusz ricominciò a svolazzare. Il telefono si trovava accanto alla cucina, in un piccolo foyer che conduceva alla camera da letto. Herman si irritò con Masha. Perché telefonava? Sapeva bene che stava per andare da lei. Forse non avrebbe dovuto rispondere? Alzò il ricevitore e disse, pronto. Gli accadde di pensare che avrebbe potuto essere Leon Tortschiner. Herman si era sempre aspettato una telefonata da lui dopo il loro incontro al ristorante. Udì la voce di un uomo, ma non era quella di Leon Tortschiner. Si trattava di una voce di basso, profondo, che domandò in inglese, «Parlo con il signor Herman Broder?» «Sì, qui è Rabbi Lampert!» Il silenzio. In cucina avevano smesso di parlare. Dica, rabbino. Sicché lei ha il telefono e non nel Bronx, ma a Brooklyn. Esplanade 2 si trova in prossimità di Coney Island. Il mio amico ha traslocato, farfugliò Herman, sapendo che una bugia avrebbe soltanto condotto a nuove complicazioni. Il rabbino si schiarì la voce. Ha traslocato e ha fatto mettere il telefono. Certo, certo, io sono un maledetto idiota, sicuro. Ma non tanto quanto crede lei. La voce del rabbino salì di tono. Tutta la sua commedia è completamente superflua. Io so tutto, assolutamente tutto. Lei si è sposato e nemmeno me lo ha detto affinché potessi congratularmi. Chissà, forse avrei anche potuto farle un bel regalo di nozze. Ma se vuole che le cose stiano così, affar suo. Le telefono perché nell'articolo sulla Cabala ha commesso parecchi gravi errori che non fanno onore a nessuno di noi due. Quali errori? Adesso non posso dirglielo. Mi ha telefonato da qualcosa a proposito dell'angelo Sandalfon o Metatron. L'articolo è già stato composto. Quando si è accorto degli errori, stavano per stamparlo. Dovranno togliere le pagine e rifare l'intera rivista. Ecco che cosa mi ha combinato. Mi spiace molto, ma se le cose stanno così, mi dimetto e lei non dovrà compensarmi per il lavoro che ho fatto. E come mi aiuterà questo? Io dipendo da lei. Perché non ha controllato? Per questo l'ho assunta, per fare delle ricerche, evitandomi di passare per uno sciocco agli occhi del mondo. Lei sa che sono occupatissimo, eh? Non so quali errori abbia commesso, ma se ce ne sono non dovrei fare questo lavoro, Rabbi. E dove la trovo un'altra persona adesso? Lei mi nasconde segreti. Perché? Se ama una donna, non sta commettendo un peccato. Io l'ho trattata da amico, le ho aperto il cuore, ma lei ha inventato una storia a proposito di qualcuno dalla patria lontana, di una vittima di Hitler. Perché non posso sapere che ha moglie? Mi sembra di avere almeno il diritto di dirle Mazel Tov. Ma certo, grazie infinite. E perché parla a voce così bassa? Al mal di gola o che altro? No, Le ho sempre detto che non posso lavorare con un uomo che non mi dà il suo indirizzo e il suo numero di telefono. Devo vederla subito, quindi mi dica dove abita. Se faremo le correzioni, aspetteranno a stampare fino a domani mattina. Non abito qui, ma nel Bronx. Erma stava praticamente bisbigliando al telefono. Di nuovo nel Bronx? Ma dov'è nel Bronx? Francamente io non riesco a capirla. Le spiegherò tutto. Mi trovo qui soltanto temporaneamente. Temporaneamente? Che cosa le succede? O per caso ha due mogli? Forse. Bene, quand'è che si troverà nel Bronx? Questa sera. Mi dia l'indirizzo, una volta per tutte. Facciamola finita con questo pasticcio. Con riluttanza, Erma gli diede l'indirizzo di Masha. Si coprì la bocca con la mano per non essere udito in cucina. A che ora sarà lì? Herman precisò l'ora. È una cosa sicura o sta bluffando di nuovo? No, sarò là. Bene, verrò. Non c'è bisogno che sia così nervoso. Non le ruberò sua moglie. Herman tornò in cucina e vide Jadwiga. Era uscita dal soggiorno, aveva ancora il volto acceso e gli occhi rossi, teneva i pugni sui fianchi e guardava il punto dove lui era rimasto in piedi al telefono. A quanto pareva, aveva ascoltato la conversazione. Herman udì il signor Peschler domandare a Tamara: «Ha parenti qui?» «Uno zio e una zia abitano a East Broadway.» «A East Broadway? E il signor Broder che cos'è per lei?» domandò il signor Peschler indicando Herman. «Oh, siamo amici.» «Bene, scenda giù dalla signora Schreier e diventeremo amici tutti quanti. Dopo tutti questi discorsi sulla fame mi è venuto appetito. Mangeremo, berremo e parleremo. Su, su, venga, signor Broder. In una giornata così gelida è piacevole aprire il proprio cuore.» «Temo di dover andare adesso», disse Herman. «Devo proprio andare anch'io», soggiunse Tamara. Jadwiga parse destarsi a un tratto. «Dove va, pani Tamara? La prego, rimanga qui. Preparerò la cena.» «No, Yasha, un'altra volta.» «Bene, sembra che non vogliate accettare il mio invito», disse il signor Peschles. «Venga, venga, signora Schreier, non abbiamo avuto successo questa volta. Se ha qualche libro antico, potremmo concludere un affaruccio un'altra volta. Sono, come ho già accennato, in un certo qual modo un collezionista, ma a parte questo, parleremo dopo», disse la signora Schreier a Jadwiga. «Forse, in avvenire, il signor Peschles non si farà vivo così di rado. Che cosa ha fatto quest'uomo per me, Dio solo lo sa? Altri si accontentavano di gemere sul fatto degli ebrei, ma lui mandava visti. Gli scrissi una lettera. Non lo conoscevo affatto, soltanto perché suo padre era stato socio di mio padre. Commerciavano entrambi e... quattro settimane dopo arrivò una dichiarazione giurata. Andammo al consolato e sapevano già tutto del signor Peschles. Lo sapevano tutti. Bene, bene, basta, non mi lodi, non mi lodi. Che cos'è una dichiarazione giurata? Un pezzo di carta? Con quei pezzi di carta avrebbero potuto salvare migliaia di persone. Peschler si alzò. Come si chiama? Domandò Tamara. Lei guardò interrogativa lui, Herman, Jadwiga. Tamara, rispose. Signorina o signora? Come preferisce. Tamara cosa? Senza dubbio avrà un cognome. Tamara Broder. «Anche lei, Broder? Siete fratello e sorella?» «Cugini», rispose Herman al posto di Tamara. «Beh, ti dico molto piccolo. Tempi straordinari questi. Una volta lessi sul giornale un articolo su un profugo che stava cenando con sua moglie. A un tratto la porta si aprì ed ecco entrare l'ex moglie di lui, che egli credeva fosse morta nel ghetto. Ecco il genere di pasticci che ha combinato Hitler, Stalin e tutti gli altri della loro banda.» Sulla faccia della signora Schreier apparve un sorriso. Gli occhi gialli di lei scintillarono di ilarità. Le rughe divennero ancora più profonde, simili a tatuaggi che si vedono a volte sulle facce degli appartenenti a tribù primitive. perché ha parlato di questo episodio, signor Peschler? Oh, per nessuna ragione, in realtà. Nella vita tutto può accadere, specie al giorno d'oggi, che ogni cosa è capovolta. Il signor Peschler abbassò la palpebra dell'occhio destro e increspò la bocca, come se fosse stato sul punto di fischiettare. Infilò la mano nel taschino della giacca e porse a Tamara due biglietti da visita. Chiunque lei sia, non restiamo due estranei. Appena gli ospiti se ne furono andati, Jadwiga scoppiò in lacrime. In un momento la sua faccia tornò a essere stravolta. Dove vai adesso? Perché mi lasci? Pani Tamara non vende libri, è una menzogna, ha un amante, va da lei, lo sanno tutti, le vicine ridono di me, io gli ho salvato la vita, mi toglievo il pane di bocca per portarglielo nel fienile, portavo via i suoi escrementi. Per favore, Jadwiga, finiscila, disse Herman. Herman, devo andare, voglio dirti una sola cosa, Yasha. Lui non sapeva che io fossi viva, sono arrivata qui dalla Russia soltanto poco tempo fa. Telefono ogni giorno alla sua bella, lui crede che io non capisca, ma capisco tutto. Passa giorni e giorni con lei e torna a casa sfinito, squattrinato. La vecchia padrona di casa viene ogni giorno a chiedere la pigione, minaccia di sfrattarci in pieno inverno. Se non fossi incinta potrei lavorare in una fabbrica. Qui bisogna prenotare un ospedale, un medico, qui nessuno partorisce in casa. Non la lascerò andare, Pani Tamara. Jadwiga corse alla porta e allargò le braccia, sbarrandola. Yasha, devo andare, disse Tamara. Se Herman vuole tornare con lei, darò via il bambino. Qui i bambini si possono cedere. Li pagano persino. Smettila di dire assurdità, Yasha. Non mi rimetterò con lui e tu non dovrai rinunciare al bambino. Ti troverò io un ospedale e un medico. Oh, Pani Tamara! Yasha, lasciami uscire, disse Herman. Si era infilato il cappotto. No, non uscirai! Yasha, mi sta aspettando un rabbino. Lavoro per lui. Se non andrò all'appuntamento adesso, rimarremo senza un tozzo di pane. È una bugia! Ti aspetta una sgualdrina, non un rabbino! Bene, mi sono resa conto di quello che succede qui, disse Tamara, in parte a se stessa, in parte a Jadwiga e a Herman. Ora devo proprio andare. Se cambio idea e decido di entrare in ospedale, devo lavare alcune cose e prepararmi. Lasciami uscire. In quale ospedale sarai ricoverata? Come si chiama? Domandò Herman. Che importanza ha? Se vivrò, ne uscirò, altrimenti mi seppelliranno in qualche posto. Non dovrai venire a trovarmi. Se scoprissero che sei mio marito, ti farebbero pagare. Ho dichiarato di non avere parenti e le cose devono restare in questo modo. Tamara si avvicinò a Jadwiga e la baciò. Per un momento Jadwiga appoggiò il capo sulla spalla di Tamara, pianse senza riuscire a dominarsi e la baciò sulla fronte, sulle gote, le baciò anche entrambe le mani. Per poco non cadde in ginocchio farfugliando nel suo dialetto di contadina, ma era impossibile capire che cosa stesse dicendo. Non appena Tamara fu uscita, Jadwiga si piazzò di nuovo di fronte alla porta. «Tu non uscirai oggi!» «Lo vedremo tra un momento!» Herman aspettò finché non diminuì più salti di Tamara. Poi afferrò Jadwiga per i polsi e lottò con lei, silenziosamente. La spinse, lei cadde sul pavimento con un tonfo. Aprì allora la porta e corse fuori. Discese in fretta, a due, i gradini disuguali, e udì un suono che era insieme un grido e un gemito. Ricordò qualcosa che aveva imparato un tempo. Quando si viola uno dei 10 comandamenti, si finisce col violarli tutti. «Finirò per diventare un assassino», disse a se stesso. Non aveva notato che era sceso il crepuscolo, il buio già invadeva le scale. Porte si aprirono, ma lui non si voltò, uscì. Tamara era là, in piedi, tra i turbini di neve, e lo aspettava. «Dove hai lasciato le soprascarpe di gomma? Non puoi andar fuori così!» gli gridò. «Devo!» «Stai cercando di ucciderti? Va a prendere le soprascarpe, se non vuoi buscarti una polmonite!» «Quello che mi buscherò non ti riguarda! Andate al diavolo, tutte quante!» «Bene!» «Sei sempre lo stesso Herman. Aspetta, andrò io di sopra a prenderti le soprascarpe.» «No, tu non ci andrai.» «Così avremo un idiota di meno al mondo.» Thank you. Tamara si incamminò tra i fiocchi che turbinavano. Sembravano azzurri e cristallini. I lampioni stradali si erano accesi, ma continuava ancora il crepuscolo. Il cielo era coperto da nubi giallognole o color ruggine, tempestose, minacciose. Un vento gelido soffiava dalla baia. A un tratto una finestra ai piani più alti si aprì e una soprascarpa cadde in strada, seguita dall'altra. Jadwiga le stava gettando a Herman. Lui alzò gli occhi verso la finestra, ma lei la chiuse immediatamente e tirò le tende. Tamara si voltò verso Herman e rise, gli strizzò l'occhio e lo minacciò con il pugno. Lui riuscì a infilarsi le soprascarpe, ma aveva già le scarpe piene di neve. Tamara aspettò finché non la ebbe raggiunta. «Il cane peggiore ottiene sempre l'osso migliore. Come mai?» disse Tamara. Lo prese sotto braccio e insieme si incamminarono sulla neve, con cautela, adagio, come una coppia anziana. Dai tetti cadevano grumi di neve e pezzi di ghiaccio. La Mermaid Avenue era coperta da alti mucchi. Un piccione morto giaceva sulla neve, con le rosse zampe che sporgevano. «Bene, santa creatura, hai già vissuto la tua esistenza.» Herman si rivolse al piccione mentalmente. «Sei fortunato, la sua sfera in casa panagliava. Perché lo hai creato, se la sua fine doveva essere questa? Per quanto tempo tacerai, onnipotente sadico?» Herman e Tamara si recarono alla stazione, dove salirono su un treno. Tamara doveva arrivare soltanto alla 14ª strada, mentre Herman andava a Times Square. Tutti i posti erano occupati, tranne una panchetta d'angolo, e loro due si pigiarono sopra. «Sicché hai deciso di farti operare», disse Herman. «Che cos'ho da perdere? Niente di più della mia misera vita!» Herman chinò il capo. Mentre si avvicinavano a Union Square, Tamara si congedò. Lui si alzò, si baciarono. «Pensa a me, di quando in quando», disse lei. «Perdona!» Tamara si affrettò a scendere dal treno. Herman tornò a sedersi nell'angolo fiocamente illuminato. Gli parve di udire la voce di suo padre che diceva: «Ebbene, io ti domando che cosa hai combinato e rendi infelice te stesso e tutti gli altri. Ci vergogniamo di te, in cielo!» Discese alla fermata di Times Square e si portò alla sotterranea. Dalla stazione andò a piedi fino alla via dove abitava Chiffrapoix. La Cadillac del rabbino riempiva praticamente la strada coperta di neve. Tutte le luci in casa erano state accese e l'automobile sembrava splendere nell'oscurità. Herman si vergognò di entrare in quella casa vividamente illuminata, con la faccia pallida e gelata, il naso rosso, i vestiti mal ridotti. Nell'ingresso buio si scrollò di dosso la neve e si massaggiò le gote per ravvivarle un po', si aggiustò la cravatta e si asciugò la fronte con un fazzoletto. Gli accade di pensare che il rabbino poteva non aver trovato alcun errore nell'articolo. La telefonata era stata forse soltanto un pretesto per intromettersi nelle sue faccende. La prima cosa che Herman notò, dopo aver varcato la soglia, fu un enorme mazzo di rose in un vaso sulla credenza. Sulla tavola coperta da un tappeto, tra i dolciumi e le arance, si trovava una bottiglia grande di champagne. Il rabbino e Masha brindavano facendo tintinnare i bicchieri, evidentemente non lo avevano sentito entrare. Masha era già brilla, parlava a voce alta e rideva, si era messa in gingheri, la voce del rabbino tuonava, Chiffrapoix in cucina stava facendo friggere frittelle. Herman udì lo sfrigolare dell'olio e gli giunse l'odore delle patate che si doravano. Il rabbino indossava un vestito chiaro e sembrava stranamente alto e grosso in quel piccolo appartamento dal soffitto basso. Si alzò, si avvicinò a Herman con un solo lungo passo. Battendo le mani, gridò a voce altissima: «Mazel tov! Sposo!» Vasha posò il bicchiere. «È arrivato, finalmente!» E lo additò, sussultando mentre rideva. Poi si alzò e avvicinò: «Non ti portare sulla porta. Questa è casa tua. Io sono tua moglie. Tutto qui ti appartiene.» Si gettò tra le sue braccia e lo baciò.